Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Ricorderete senza dubbio che fino a, diciamo, un paio d'anni fa, a questo microfono e sotto questo cappello, Melog o nomi molto simili, si parlava soltanto di televisione. Anzi, ricordo che la mia prima sottosigla, una quindicina d'anni fa, fu proprio Il regno della televisione e i segni dei tempi. Perché? Perché allora erano i primi anni 90, mi pareva fantastico osservare il mondo come si riflettesse nel quotidiano televisivo. Mi piaceva avere un occhio che andava oltre la scansione di reti, di palinsesti, di editori, di programmazioni, e guardare il fluttuare di un'idea di umanità che usciva, traspariva, galleggiava tra un programma, una pubblicità, un telegiornale, un notiziario. I primi albori di TV Verità, allora si parlava di casi umani portati in televisione, che in realtà di umano avevano ben poco perché erano già inizio di un prodotto di artefazione. Mi piacque osservare, guardare la televisione e considerarla come una sorta di profezia di quella sarebbe stata l'umanità a venire. E infatti, l'umanità cominciò lentamente, con grandi difficoltà. Questa mattina ancora leggo che c'è una percentuale altissima di italiani, però dai 17 ai 74 anni, quindi la maggior parte saranno persone che andranno dai 50 ai 74, che non sono mai connessi alla rete internet. Però è un dato di fatto che ormai l'umanità sta iniziando lentamente la sua transumanza verso il regno in cui si produce se stessi, in cui l'immagine speculare, sfavillante e gratificante di se stessi viene prodotta con le nostre stesse mani. Questo può essere attraverso un messaggio di Twitter quotidiano che segnala e certifica con cadenza e ricorrenza la propria esistenza. Questo può avvenire attraverso una serie di fotografie postate sul proprio profilo Facebook che danno agli amici e conoscenti o ai semplici passanti che lambiscono il nostro profilo l'idea che noi esistiamo, viviamo, abbiamo una vita sociale, andiamo a cena con gli amici, andiamo in vacanza, ci divertiamo, abbiamo belle scarpe, bei vestiti, siamo belli o siamo belle, siamo abbronzati, abbiamo dei corpi desiderabili, dei volti pieni di sensi di profonda riflessione. Questo sta avvenendo, quindi l'umanità ha capito che una delle maniere più formidabili per esistere nella contemporaneità è avere un proprio fantasma luminoso accanto che rappresenti se stesso. Io tanti anni fa li chiamai ectoplasmi, perché? Perché la televisione la consideravo un medium e come tutti i medium evocava i fantasmi, quindi guardavo con divertimento questa galleria dei fantasmi che davano l'idea e l'impressione di essere qualcosa di più dell'umanità in carne ed ossa che osservava lo spettacolo televisivo. Perché? Perché ogni cosa che dicevano era eccelsa, ogni marzullata diventava una massima di vita, ogni smandrappata, rigonfiata, perlabiata, super tettuta diventava una miss. E improvvisamente capì che l'umanità andava verso quella direzione, nella costruzione di un'immagine, non dico fittizia che è brutta, con termine dispregiativo, un'immagine artefatta di se stessi che meglio ci rappresenti, che socialmente ci gratifichi. Sono passati diversi anni da quando guardavo con grande attenzione la televisione, ora la guardo molto sporadicamente. Perché? Perché non mi interessa più tanto, perché considero l'analisi quotidiana della televisione molto ripetitiva, perché non mi dà grandi sorprese. Ma è un esercizio importante, è utile, ma è come, non so, ascoltare quando sento parlare di televisione in maniera corretta, seria, impegnata, appassionata, non so, il mio vecchio professore di filologia romanza che mi frammentava verso dopo verso il Cid Campeador e mi spiegava il perché, per come e per quando di quell'esito, di quel passaggio. Era molto interessante, era molto divertente, ma poco mi serviva per capire il mondo che mi circondava, se non darmi strumenti di elaborazione, di elasticità mentale. E oggi a che punto è la televisione? Come vogliamo considerare la televisione? Ma la televisione, da un punto di vista di industriale, almeno riferendoci alla nostra situazione nazionale, quella che più ci interessa, perché sai, poi quello che succede nel mondo ci tocca soltanto di riflesso, delle punte avanzatissime di noi osservano le televisioni estere, noi ci becchiamo tutt'al più le riproduzioni ridoppiate di prodotti esteri, né chi ha possiede una TV con connessione satellitare, gli altri si accontentano di quello che passa al convento, mandano giù la broda di tutti i giorni, tanto serve soltanto ad addormentarsi lietamente sul divano, serve alla non socializzazione familiare, serve a creare quegli insiemi di persone zombizzate che stanno lì, hanno l'idea di essere una famiglia, di essere un agglomerato, di essere una coppia, e guardano quella luce che ancora dà un senso comune di appartenenza a qualcosa che non so più nemmeno a quale dimensione venga. Beh, questa televisione va andata a finire. Cosa ne fate voi di questa televisione? Guardate che fa acqua da tutte le parti. Fanno acqua ai modelli cosiddetti popolari, disprezzati, quelli per cui gli intellettuali si turano il naso e dicono: ah, io non ho nemmeno comperato la televisione, l'ho buttata via, non la guardo da anni. Leggo dei buoni libri, ascolto musica classica, vi faccio delle bellissime tisane e chiacchiero e converso con gli amici. Ma cazzate, figuriamoci se questo è vero. Non voglio pensare e immaginare cosa facciano, ma non guardano più nemmeno la loro televisione. La televisione radical chic, la televisione impegnata, la buona televisione, la televisione che faceva sdilinquire le pagine dei giornali di note, di partecipazione, anche quella sta andando male. Le due grandi signore della televisione radical chic, la Bignardi e la Dandini, hanno fatto dei flop paurosi. Ma perché? Non guardano, non hanno più il loro pubblico, non hanno più i loro affezionati, quell'Italia è scomparsa. Anche che l'Italia deve combattere con il pannolone e il catetere, quindi non sta più lì a guardare e bearsi di quello spettacolo televisivo. Forse non esiste più il grande cattivo, il regno del male, quella fantasmagorica idea di abiezione, di lussura, di depravazione, di impero alla fine della decadenza che dava esistenza a questa televisione. Beh, insomma, a che punto è la televisione oggi? 800240024, confessatevi. Che esempio date? Spiegatemelo. Io mi attacco al televisore e vedo uno che dice: ma però fanno tutti i video montati per farmi stare con Ilenia, però con Chiara. Ma è o no la verità, scusami? Avete fatto passare Amedeo e Chiara come se fossero fidanzati. Ma chi l'ha mai fatti passare come così? Se io non mi sbaglierò, ma chi l'ha mai fatti passare così? Amedeo e Chiara sono prima, stati molto amici. Io sentivo la cosa dell'avvocato. E secondo me, parlo anche con Chiara dopo. Noi siamo Rudolf, lo vedi che sei polemico anche adesso? Secondo me noi siamo stati anche troppo bravi. Chiara lo sa, noi siamo stati anche troppo bravi, ve lo dico io. Qualcuno salutò questo momento del Grande Fratello 12 come un momento epocale in cui un concorrente rivelò finalmente il meccanismo dell'artificio. Rudolf si arrabbia, urla con la Marcuzzi in questa duplice figura di donna affascinante, di coscia al vento seducente, che allo stesso tempo però ci martella quotidianamente in tutte le reti con questi suoi spot intestinali in cui si vede il flusso fecale che dall'intestino fuoriesce e lei improvvisamente è alleggerita, è sgonfiata. È una sorta di aporia, di contraddizione in sé che non si regge, eppure è ancora un modello che ha successo. Tu sai molto bene che ho parlato con gli autori di questa cosa. Senti, tu sai Rudolf, molto bene che ho parlato stato, del contratto Rudolf, e loro mi hanno detto e mi hanno convinto per tanti motivi che non potevo uscire per molte cose. L'abbiamo che comunque convinto. Se ne è rimasto allegato a Endemol nonostante tutto quanto. Rudolf, stai dicendo delle cavolate, c'è la porta rossa, se vuoi uscire esci, vedrai che nessuno ti blocca. Voglio vedere se qualcuno ti blocca, voglio vedere. Sentite, quando Rudolf pronuncia la parola Endemol, la Marcuzzi salta come se si fosse ripetuto un rituale ormai stracco, antico, reiterato del bestemmiatore. Poi anche in questo Grande Fratello c'è stato un bestemmiatore, sono 12 anni che in ogni Grande Fratello c'è un bestemmiatore, ma come c'è un difforme, c'è un abnorme, c'è uno strano, c'è un singolare. Qual è il motivo per cui il Grande Fratello non convince più? Qual è il motivo per cui anche questa operazione televisiva della televisione che si ispira alla realtà oggi fa acqua? Perché non fa più i numeri che faceva? Non è che il coattume nazionale si sia esaurito o abbia esaurito le proprie fonti di ispirazione? Proprio di ieri la notizia della grande scoperta delle Iene, di colui che si spacciava per un rampollo della famiglia bulgara e portava queste ragazzine in camera d'albergo soltanto facendosi forte di un dépliant della grande casa bulgari. Evidentemente ci sono ragazze che per accedere a quel mondo, per fare le modelle, per entrare nel mondo rutilante, sono disposte a dimenticare qualsiasi raziocinio. Beh, questa mattina vorrei parlarne con alcuni amici, con persone che ancora in realtà osservano con grande serietà e con grande attenzione la televisione come se fosse qualcosa che ha un'esistenza, probabilmente ha un suo motivo di essere osservata. L'uno di questi, anzi forse quello più serio che io conosca, è Massimo Bernardini. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, caro Nicoletti, buongiorno ai tuoi ascoltatori. Massimo Bernardini si occupa di televisione, penso, da qualche decina d'anni, prima come giornalista specializzato per il quotidiano L'Avvenire, poi come conduttore televisivo di TV Talk su Rai 3, che è uno dei programmi, forse l'unico programma che ancora prende la televisione sul serio, la guarda, l'analizza, la scompone con dei professori che studiano televisione. Io ormai appartengo ai reietti dell'osservazione televisiva, però tu, Massimo, che sei dentro, sai darti qualche spiegazione, o poi sai sintetizzarmi per il pubblico che ascolta cosa sta accadendo alla televisione italiana? Ma guarda, a me ha molto colpito il tuo modo di ragionare e in qualche modo mi interroga, perché insomma TV Talk ormai ha superato il decennio di osservazione della televisione, quindi dici, ma chi te lo fa fare ancora di guardare questa roba? Io ti dico subito che... Beh, rimarrebbe un sacco di professori disoccupati se improvvisamente sì, chiudesse l'analisi della televisione. Io, a Dio piacendo, faccio il giornalista, il cronista. Sì, sì, ma sai che ci sono facoltà e facoltà che studiano la televisione. I professori in un'aula universitaria per parlare di televisione, di questo mi vanto anche un po', detto fra noi. Ma tu dici... Lo stato dell'arte secondo me però è questo. Io perché mi diverto? Guarda, vado su, direttamente sulla mia posizione. Perché mi diverto ancora a fare TV Talk, quindi a osservare ogni settimana la televisione? Per la patologia in cui è immerso il nostro paese. Comunque questo paese si racconta ancora attraverso la televisione, non c'è niente da fare. Le sue contraddizioni le trovi lì dentro, nel bene e nel male. Tu forse nell'analisi che hai fatto hai però saltato un particolare. È vero che un certo tipo di televisione, facciamo un esempio appunto dei reality, Isola e GF, tanto per fare un esempio caldo, è inattuale, è profondamente inattuale. Infatti io quello che trovo risibile è non tanto che i conduttori la facciano ancora, ma che si prendano ancora e la prendano ancora così sul serio. Ma non potrebbero fare altrimenti, Massimo, è il loro lavoro, lo fanno anche bene, però vorrei capire... Ma invece secondo me ci sarebbe un'altra strada, però questa è un'osservazione laterale. In realtà però, per esempio, dimentichi che è vero che le signore, come dici tu, hanno perso ascolto, ma per esempio noi quest'anno abbiamo assistito a una, come dire, a un ingigantirsi per esempio della TV di informazione. Noi siamo arrivati a 4 programmi di inchiesta in prima serata in Italia, cose che non c'erano, e vanno bene, obiettivamente vanno dal minimo 1 milione fino a 2,5 milioni delle prime serate di Rai 3. Quindi in realtà non è vero che il racconto giornalistico del paese sia meno interessante per gli italiani, e questo è cresciuto, attenzione. Allora quindi c'è un maggiore interesse qualora la televisione mostri che ha degli strumenti di elaborazione del reale concretamente credibili, e perde, certo, laddove diventa un'elaborazione fantastica a cui nessuno crede più. Certo, quando noi ci dicevamo che reality in realtà era il racconto del lato oscuro del paese, no? Però rendiamoci conto che adesso per esempio il pubblico dei reality è un pubblico che è sceso molto in qualità. È vero che c'è una parte di giovani che continua a guardare il Grande Fratello, però da un certo punto di vista va tenuto presente che è, come dire, la parte più cheap, senza offendere nessuno, del paese. Sono i giovani più cheap. Sì, sono proprio l'ultima schiera del coattume, diciamo la verità, anche perché, Massimo, sono ancora tanti. Sì, sono tanti, ma quando una volta che si è avuta la certificazione, e premetto, lungi da me ogni lettura tipo moralistico, che in realtà le concorrenti del Grande Fratello corrispondevano a una sorta di casting di feste eleganti, di personaggi importanti e tutto, era una sorta di area di compensazione o luogo di gratificazione in cui poi si passava al contatto diretto con il potere politico, si è capito che anche questo grande sogno illusorio che ce la poteva fare chiunque era un po' limitato. Sì, ce la fanno quelli, come sempre è accaduto nella storia del mondo, che sono più perspicaci, più cinici, più disposti a mettersi in gioco per arrivare velocemente nei luoghi che contano, nei posti che contano. E questo ha un pochino abbassato il livello delle attese, non ce la può far chiunque, ce la fa solo chi ha un pacco di pelo sullo stomaco di fare anche particolari operazioni performative. Però io mi chiedo ancora, ma perché questo paese continua a scegliere la televisione come il punto centrale in cui raccontarsi, in cui giudicarsi, in cui alla fine, per dire, una prima pagina sbagliata la vai a discutere al pomeriggio in televisione. Cioè è sempre il ritorno lì, cioè questa è la patologia vera del nostro paese, lo sappiamo, basta guardare i giornali degli altri paesi, la televisione non è così centrale, proprio come racconto di sé. C'è ancora un'intelligenza, c'è ancora un mondo, per quanto riguarda il buon libro, ragazzi, ricordiamoci anche che buoni libri è durissimo a trovarli oggi. Sì, sì. Cioè questo aspetto, non è che esiste il mito del buon libro, cioè purtroppo la malattia, io credo che noi siamo malati di televisione. Tommaso, sai che succede? Io, giorni fa mi ho ospitato una trasmissione, ho parlato 3 minuti, ma ancora mi ferma il salumiere per dire: ah, l'ho vista in televisione, e ti giuro, parlo ore tutti i giorni alla radio, quindi ancora ha un suo aura di gratifica andare in televisione, che non ha precedenti. È chiaro che una persona ci vuole andare. Ancora, se vai in televisione, comunque, qualunque cosa tu dica, qualunque cosa tu faccia, vieni considerato qualcuno che è degno di considerazione. Sentiamo un secondo qualche ascoltatore. Luca da Pisa. Luca, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccolo. Io vorrei esordire con, dunque, prima mi sembra un po' troppo usato ultimamente questa rincorsa al radical chic, nel senso che se uno non ha... Ma io lo trovo molto in crisi comunque anche il termine, comunque sì. No, sì, il termine è orripilante secondo me, però quindi è vissuto... Quando ne verrà uno nuovo a sostituirlo lo acquisteremo volentieri. Ma la lingua è piena, possiamo usare tipo quelli col tweed, con le toppe sulle maniche, ma quello col New Yorker, ma quello non ci interessa. Quello che volevo dire io è semplicemente che, scusate se magari faccio un esempio personale, ma sì, è la migliore visione sulla realtà. Io dopo 15 ore di lavoro autonomo rientro a casa, semplicemente infliggersi la televisione nazionale sarebbe proprio uno strazio. È lì che non sono d'accordo proprio sul... Uno non è che fa lo snob se non guarda la TV, quella di oggi. Ci sono semplicemente... Non voglio fare il discorso dell'importanza della rete, delle nuove tecnologie, ma è esattamente così. Il fatto di consegnarsi non solamente a della musica classica, a Mahler o a Beethoven, non è così. Semplicemente io ho una passione per la musica più o meno ricercata che cerco di sviluppare in maniera personale, e la sera è l'unico momento che ho a disposizione, quindi la TV semplicemente è stupida e di conseguenza è inutile. Sì, è stupida, però nonostante quello che sto dicendo e le vesti che mi stia stracciando, la sera a una certa ora, messi i figli a letto, tranquillizzato tutto, io accendo la televisione, poi magari mi guardi Simpson, ma scarrello la televisione come ho sempre fatto negli ultimi 20 anni, non saprei dirvi nemmeno cosa guardo 100 cose, mando un pezzo di fiction, mi guardo i Simpson, poi mi guardo i Jefferson, poi guardo American Daddy, poi mi guardo qualche telefilm, poi mi capita anche di guardare la Clerici, la Carlucci, ma faccio un grande malloppone, ma difficilmente ne saprei fare a meno. Luca da Macerata invece. Salve dottor Nicoletti, io sì, anche io come lei la notte guardo i Simpson fuori orario, stracolte, durante il giorno non la vedo perché penso sia stupida, ma la cosa tra virgolette più grave, non voglio fare il moralista, secondo me è questa grandissima moralità dei reality tipo Grande Fratello, che si scandalizzano per un'innocente bestemmia che... Beh, innocente, di dirlo, non è una cosa bellissima. Tra virgolette innocente, sì, però sì, poi non si scandalizzano. Sono convinto, per... guardi, sono convinto ci siano colpe che indignano il Padre Eterno molto di più, però sa, è che è diventato l'unica punta di uscita dal mondo possibile e immaginabile, si oltraggiano le regole umane 100.000 volte, però sulla bestemmia c'è sempre un bestemmiatore, comunque segna un momento fantastico nella storia del Grande Fratello. Beh, a lei cos'è che indigna invece, a parte la bestemmia? A me indigna più che altro la... Cioè, io non sono un moralista assolutamente, però la promiscuità assurda, quindi... È come non è moralista. Con quello... Fa un discorso da sacrestano proprio, la promiscuità è la cosa che a me indigna meno, perché sembra vedere dei polli nella stia, poveracci, che devono fare? Se io fossi al Grande Fratello la cosa mi farebbe arrabbiare, che la gente, fra virgolette, fornica con tutti e invece la bestemmia li fa andare via. Questo. Quindi la fornicazione la considera un peccato maggiore? No, assolutamente, io sono un grande fornicatore, però all'interno del Grande Fratello secondo me non è ben accostato il discorso bestemmia, fornicazione o... Quindi balaccia. Lei fa una gerarchia di colpe, ma guardi, proprio perché lì si consuma qualcosa che nel sentire comune viene considerato colpevole, ha successo, perché se stessero lì a fare i fioretti inginocchiati sui ceci e a dire rosario nessuno li guarderebbe. Sirio. Sì, buongiorno Nicoletti. Eccolo. A lei e al suo ascoltatore. Io, diciamo, sono un po' un addetto del settore che lavora a Mediaset da 25 anni. Ma cosa fa? Perché si fa di tutto? Allora, io sono partito a fare il ramo tecnico e poi negli ultimi tempi faccio il delegato di produzione, quindi seguo proprio la produzione dei programmi. ho seguito Striscia la Notizia, telegiornale, insomma. Però devo dire che la nostra televisione è stato un decadimento continuo e nel tempo. Ma il decadimento rispetto a cosa? Ma perché volevo dare forse una risposta al signore che ha parlato prima, che non mi ricordo il nome, che diceva: mi chiedo come mai la gente ancora impronti molto della propria della televisione. Io sono dell'idea, avendo girato molto nel mondo anche, che siamo sempre, noi siamo un popolo che guardiamo la facciata, non guardiamo i contenuti. Parlando espressivamente di televisione, io se devo vedere una televisione vedo la televisione svizzera italiana, perché è la giusta miscellanea tra intrattenimento, cultura. Sì, io spero che non la riconoscano i suoi datori di lavoro in questo momento, perché sta... ma io lo dico chiaramente anche ai nostri realizzatori, ai nostri registi, lo dico chiaramente perché non ho peli sulla lingua. Noi facciamo una televisione, prevalentemente commerciale, però proprio perché del commerciale se ne è portata all'esasperazione, sono iper convinto che ci sia questo decadentismo. C'è un bellissimo libro, La società dello spettacolo, scritto da Guy Debord, con la prefazione di Freccero, tra l'altro, sì. Spiega proprio i crismi di sì, Freccero fa il post situazionista quanto vuole, fa il debordiano, però diciamo è responsabile delle peggio cialtronate Rai, è stato lui quando cominciò a fare i programmi pettinati. Comunque non voglio entrare in questo specifico. Massimo Bernardini, ma può esistere ancora questa sorta di divario, la buona televisione, la cattiva televisione? Io guardo solo la buona televisione. La televisione è una e va bene per tutti. Il giornalismo, secondo me, è sfarrato dai fatti, perché poi il consumo, io voglio dire, è vero che io stesso ho detto che le informazioni in questa stagione sono più caldi, più seguiti, più importanti, però è vero che i milioni di telespettatori sono incollati là, dove la volgarità barra banalità, e non parlo né di sesso né di bestemmie, sì, ma proprio di qualcosa di profondo, no? Di profondo. Gaber la chiamava volgarità, ma voleva dire proprio questo modo banale con cui noi raccontiamo le cose attraverso la televisione. Che è la cosa che, se vogliamo usare il termine indignazione, che non fa parte molto del mio vocabolario, dà più fastidio. Perché l'uscita dalla regola che determina rozzezza, frequentazione di ambienti non proprio eccelsi, posso anche comprenderlo, è la caduta un attimo di tenuta, ma la costante volgarità, il costante insistere su qualcosa che in realtà è uno stile ormai affermato, quello veramente è il segno che non dico ci dovrebbe preoccupare, ma che ci fa riflettere quanto il paese si senta ancora di piacevolmente riflettersi in questo humus. Saluto Massimo Bernardini, che so che ha un impegno. Ci fermiamo un attimo per dare l'informazione della borsa e riprendiamo tra un istante sulla televisione che guardate, che non guardate o che vorreste guardare. Melog, la realtà condivisa. Chi vincerà sarà immune dalle nomination, ok? Absolutely yes! E quindi il conteggio alla rovescia al mio via, 3, 2, 1, via! Eccoli qui che sono partiti, a passo veloce, denaro, è cascato giù ed è rimasto imbrigliato in una corda, ma si è liberato. Carmen Russo, una tempra incredibile, si è lanciata nella vasca gelata. Era tanto che non guardavo più l'Isola dei Famosi, ho visto proprio esattamente questa scena dell'ultima edizione. Premetto, i reality fondamentalmente appartengono a due grandi filoni. Quello elettivo dovrebbe prendere dal nulla degli sconosciuti, degli sfigati e portarli al rango di conoscenza, com'è il Grande Fratello, almeno nella premessa, non nella realtà. E quello conservativo, risumativo, che è appunto l'Isola dei Famosi, che prende persone non più baciate dalla fortuna, della visibilità, dalla gloria professionale, in un momento di decadenza, che vengono resumati, viene messa della formaldeide nelle loro vene, il cadavere riassume per un attimo una parvenza di persone vivente, e vengono buttati in questa sorta di ordalia perenne. In questo caso alcuni ex famosi come Carmen Russo, il Mago Telma, Malgioglio, un poverino anche Cecchi Pavone, che potrebbe più dignitosamente usare la sua capacità di racconto, si rotolavano nel fango, che è una delle cose anche metaforicamente più orrende, una fanghiglia marrone molto somigliante alla peggiore delle deiezioni, in cui si rotolavano come bestie, come vermi, passando sotto degli ostacoli. E finita la corsa attraverso il fango, la vincitrice Carmen Russo mostra una sua ulteriore capacità, un suo talento, andando con la bocca, scavando una buca, a prendere fra le labbra una grossa chiave, impugnandola appunto e tirandola fuori da sottoterra, come un coniglio strappa una carota dalle viscere della terra, e con questo oggetto in bocca ha dimostrato di avere vinto e non essere, e non passerà per la nomination, un altro termine che ormai è talmente entrato nell'uso quotidiano non aver più nessun tipo di valore. Giorgio, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Buongiorno Nicoletti. No, io volevo dire che credo che però si possa anche, si equivoca spesso tra la televisione di qualità e la televisione impegnata. Non credo che equivalgano, perché per esempio a me piacciono le cose fatte bene, e quest'anno credo che il caso televisivo sia Masterchef, che è un quasi reality, ma in realtà è un programma molto ben scritto, molto veloce, con un bel montaggio, senza risse, senza quel famigerato televoto dove il simpaticone di turno si fa votare dagli amici del paese e fa guadagnare la casa di produzione. Mi sembra che le cose fatte bene valgano ancora la pena di essere viste. Credo che abbia anche catalizzato l'attenzione di gente che di cucina non ne capisce, non è interessata. Sì, e non è un filone che appassiona molto, quello della cucina, espropriato alle donne dagli uomini, o perlomeno da una classe di rappresentanti del sesso maschile, che come l'arredamento, come la sartoria, come lo stile, anche la cucina, hanno usurpato e portato, se ne sono impostati e portati in televisione. È un programma che parla appunto di cucina. È una cosa che appassiona molto, piace molto. Il best seller della nostra narrativa nazionale sono i libri della giornalista che è diventata esperta in cucina, e quindi siamo molto contenti che questo accada. A lei è piaciuto. Però volevo tornare un attimo sul filone reality, perché mi sembra quello che sembrava aver maggior promessa di mutazione della televisione, che in realtà però anche lui è entrato nella sua fase di entropia, non va né avanti né indietro. Paolo Mosca, buongiorno. Buongiorno. Allora, Paolo Mosca è autore di un libro, Reality, dal Grande Fratello all'Isola dei Famosi, editore Bompiani, però è una persona che ha sempre lavorato nel campo della televisione, è stato anche autore, anche di Reality mi pare, no Mosca? Sì, sì, anche dell'Isola dei Famosi. Dell'Isola dei Famosi, perfetto. Mi dici se perché ho questo sentore che ormai il modello sia piuttosto stanco, non abbia più quel suo carattere di fantastica uscita dalle regole, che agli inizi anche a persone che non ne condividevano gli stili, il portato, via dicendo, lo guardavano perché era divertente, guardarlo in compagnia era divertentissimo. Oggi non diverte nemmeno più, più di 5 minuti di Mago Telma che si rotola nudo nel fango non si può resistere. Ma guarda, secondo me ci sono tre ragioni fondamentali di questa crisi. La prima ti direi che è collegata al discorso che facevi tu proprio all'inizio di trasmissione sullo specchio. Cioè, una volta il reality rappresentava tantissimo questo meccanismo di specchiarsi in TV. Adesso questo secondo me si è perso. Cioè, il concorrente del Grande Fratello una volta era il panettiere, era l'idraulico, adesso è una categoria a sé. Esattamente. Per cui esistono una nuova categoria sociale, diciamo così, lavorativa, che è quella del concorrente del Grande Fratello. E anche tra i famosi, una volta appunto era l'ex famoso che andava in qualche modo riciclato, adesso si ricicla il concorrente vecchio dell'isola. Quindi è un parlarsi addosso che ha fatto perdere un po' la sua natura. Cioè la patente di famoso gliela data reality e lo ricicla come ex famoso del reality, quindi si mangia se stesso praticamente. Esatto, si mangia la coda. E un'altra cosa che secondo me era fondamentale nei reality e lo è stato nel periodo d'oro erano le regole, la liturgia del reality stesso, cioè il meccanismo era chiaro, era semplice ed era soprattutto inviolabile, per cui c'erano delle nomination che andavano in un certo modo. Bravo. Gli ingressi di altri concorrenti erano rari, far mettere un concorrente in più era una cosa comunque sempre un po' distonica, no? Adesso si cambia secondo le necessità, si vede, non ci sono più regole. Adesso sì, è un continuo cambiare e si è un po', diciamo così, usurato il format in nome spesso di quella sorpresa che ti può dare il punticino in più di share in una data edizione, però in questo modo il format non ha più quella serietà che invece una volta il pubblico sentiva. E la terza e ultima cosa, secondo me, è il rilancio, cioè un tipo di programma del genere era forte all'inizio, se vi ricordate, anche per il lato sadico che c'era nello spettatore nei confronti dei concorrenti, per cui chiudere dei concorrenti per 3 mesi in una casa, piuttosto che mettere degli ex famosi a non mangiare su un'isola deserta, era comunque una certa soddisfazione a chi guardava da casa. Cioè non soffrono più adesso, secondo te non soffrono più? No, oppure soffrono sempre della stessa sofferenza, per cui ci siamo abituati, non ha più quel meccanismo. Avrebbero dovuto, o si dovrebbe, però chiaramente poi si ha a che fare con le morali di un paese, rilanciare, cioè il seguito di un bisognerebbe passare alla Vergine di Norimberga, alla pera rettale, alla sega, cioè tutte alle cose più terribili delle macchine di tortura, noi pensiamo, perché cos'altro si possono inventare? Sì, esatto, io mi immaginavo come quel film con Schwarzenegger, L'Implacabile, no? dove prendevi dei galeotti, li mettevi in un programma televisivo e chi vinceva aveva la libertà. Cioè questo tipo di programma comunque il rilancio lo prevede, poi ovviamente per motivi di etici non si può fare e quindi la forza propulsiva la perde. Senti una cosa, ma il cosiddetto pubblico giovane, che è questa grande chimera degli autori televisivi da sempre, da Bernabei fino a Lady Lei, capito? Quindi mi sembra che sia... Ecco, in realtà cosa fa? Io vedo che c'è una grande attenzione comunque nel usare la risulta di questi grandi programmi, di guardarseli, commentarseli, ridoppiarseli su YouTube. È diventata una sorta di officina artigianale di prendere e riconfezionarle e riderci sopra. Sì, è diventato un mezzo per giocare. E in questo senso i social network sono perfetti, anche commentare sul social network quello che stai vedendo è una cosa assolutamente divertente. Su Twitter è divertentissimo, sì, seguire su Twitter un programma che seriamente viene preso dalle televisioni pubbliche come un programma di pubblico è una cosa più divertente, perché tutte le sconcezze, come guardare Sanremo con gli amici, è una pernacchia continua. Questo probabilmente non è però nelle previsioni o perlomeno nel core business di chi produce televisione. Sicuramente, poi è poco computabile, per cui non è che fai i numeri con i commenti su Twitter. Una delle cose su cui secondo me bisognerebbe stare attenti quando oggi come oggi si valutano gli audit e lo share delle varie trasmissioni è anche il fatto che ormai molti lo vedono per esempio in streaming e lo streaming non è una cosa così semplice da valutare. Sì, ci stanno ragionando solo in termini di possibilità di spremere un altro po' di evasori del canone alla televisione, però in realtà non si rendono conto che in effetti molte persone stanno davanti a un computer, preferiscono guardarlo in streaming il programma, che è molto più interessante, guardarselo dopo, guardarselo a posteriori, o riguardarselo e commentarselo con gli amici. È strano che la televisione non abbia ancora pensato di come usare in maniera proficua per sé questa grande voglia di artigianato parallelo. Sì, l'ha fatto Sanremo con Sanremo Social, che è stata una cosa molto ridicola, come gli anziani che mettono i jeans e le magliette colorate per sembrare giovani. Ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni del traffico. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Non mi sembra proprio molto pulito questo cocco. No, tanto, è buono. Tanto nell'acqua bollente si disinfetta, per cui possiamo. No, è pulito comunque. Ma è buono, è pulito. Però ho notato. No, ma ci devi togliere ancora la buccia, guarda. Vabbè, spezzalo, ma io mica devo mangiare il cocco. No, non buttarlo, Ma no, mi serve per l'assaggio. Se qualcuno solleva il coperchio... I ricetti li ho messi lì. È una prelibatezza questa. 800 24 00 24. Vi facciamo ascoltare dei brandelli di Rialti. Ah, quanta nostalgia, quando tutto il giorno io di questo mi nutrivo e questo commentavo, ne avrei una grande voglia, ma non saprei più cosa dire di originale, di interessante, di divertente, di intelligente. Sentite, l'audio stesso potevo averlo sentito 10 anni invece di Malgioglio, c'era in squadra invece che il Mago Telma, c'era qualcun altro con la stessa voce, con lo stesso tono, la stessa intonazione, lo stesso ruolo in quel reality, perché c'è il bello, c'è il brutto, c'è il cattivo, c'è l'incerto di genere, c'è di tutto comunque, capito? Quindi mi sembra che manchi proprio una profonda fantasia nel cambiare, come diceva prima Paolo Mosca, che ha scritto un libro su reality e è stato autore di reality. Manca il grande salto, non si può vedere le stesse persone si rotolano nel fango o si contendono la noce di cocco come se fossero degli affamati in una galera. No, bisogna inventare qualcosa di più. Infatti suggerivo alcune raffinate macchine di tortura appartenenti al felice periodo della Santa Inquisizione, che probabilmente darebbero perlomeno dei frisson al telespettatore ormai addormentato. Daniele. Pronto, buongiorno. Eccolo. Allora, io volevo dire, almeno per la percezione che ho io, però ho anche sentito altre persone, mi sono confrontato, io credo che ci sia un eccesso proprio di fiction, paradossalmente, nel reality. Cioè, le persone, noi, quindi la gente che guarda la televisione, ha percepito che c'è qualcosa di finto, cioè queste liti pompose sono ai limiti dell'assurdo. La gente si domanda, ma queste persone realmente vivono queste cose? Perché inizialmente il grande cioè l'elemento pomposo nel reality, che è uno di quelli che attira di più l'attenzione, in realtà corrisponde a un copione stracco mai scritto da tanto tempo. Si scrive pompa e quello avviene nel reality e tutti guardano e fa successo. Cioè sembra come se qualcuno appunto da dietro manovrasse, cioè se devono andare così le cose, mentre all'inizio il primo Grande Fratello era il festival della spontaneità, no? Quindi tutti adesso la gente sa che c'è forse perché una trama dietro, perché insomma alla fine l'importante è l'audience, la pubblicità che paga, quindi uno ragiona così, soprattutto quando vede un programma dove gli utenti iniziano, cioè i partecipanti iniziano a stranirsi come nel Grande Fratello, come se il gioco non valesse la candela, nel senso almeno l'astinenza fa brutti risultati molte volte, questo accade, può accadere. Guardi, io non per autocitarmi, ma il primo Grande Fratello 12 anni fa intercettammo le frequenze dei microfoni che collocavano fra autori e concorrenti, già nel primo Grande Fratello è successo un casino, si arrabbiarono tutti, allora facevo un'altra trasmissione alla radio, mi occupavo di televisione, venne fuori palesemente che c'era questa sorta di imbeccamento continuo sulle procedure, quindi è sempre stato così. Poi vediamo se mi conferma Paolo Mosca, il segreto di Pulcinella, un po'. Paolo Mosca ha scritto un libro, Reality, ricordo, edizione Bonpiani, dal Grande Fratello all'Isola dei Famosi. Vogliamo una volta per tutte dire la verità, in che percentuale lavorano su un copione i concorrenti di un reality? Ma guarda, in realtà un po' nel libro lo racconto anche, per la mia esperienza il copione non c'è mai stato, cioè c'è sempre un copione a posteriori. Chiaramente tu vedi quello che succede e quindi per esempio le domande del confessionale, che poi diventa sempre la spina dorsale del racconto, le orienti a seconda di quello che è successo, quindi ti adatti un po' tu a quello che accade. Anche i filmatini che raccontano, diciamo, il backstage, dipende dall'inquadratura, dall'insistenza, orientano molto, diciamo, la storia in sé. Beh, di certo tu puoi puntare più su un concorrente piuttosto che su un altro, ma non tanto per orientare la storia, ma perché questo concorrente ti sta fornendo più cose. Cioè una delle cose che mi ricordo all'Isola era l'ansia della telecamera, per cui lì ci sono solo due telecamere a riprendere sulla spiaggia, non è tutto coperto come all'Isola. Quindi chiaramente vai a riprendere le cose interessanti, cioè vai a riprendere dove succede qualcosa. Se uno per un po' non veniva ripreso perché stava zitto in un angolo, era chiaramente portato a svegliarsi fuori per poter partecipare al gioco. Beh, sentiamo allora un diretto testimone, una persona che a cui a 19 anni sono aperte le porte di un nuovo mondo, sognato, desiderato, pensato, immaginato. Aprì quella porta, era rossa, un piccolo tunnel, e entra nella casa più conosciuta, più osservata, più intransigente, più discussa d'Italia. Questa è la descrizione del libro Il mio grande fratello, editore Liberti, di Ilaria Turi. Ilaria Turi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti e buongiorno ai telespettatori di Radio 24. Ecco, Ilaria Turi, tu sei stata una concorrente del Grande Fratello. Sì, edizione numero 4, quindi un po' di anni fa. Eri quella che era entrata con il padre, mi pare. O sbaglio? Sì, io, allora, a dire il vero sono entrata da sola, poi mi hanno fatto questo scherzo però abbastanza simpatico, ho convissuto per un po' all'interno della casa con mio papà per circa 2 mesi, è stata una bellissima esperienza, una bella avventura. Io sono, se posso dire, sono perfettamente d'accordo con l'autore Paolo Mosca, perché tutto quello che ha detto, io ho ascoltato un po' del suo intervento, ha perfettamente ragione. Io attualmente non sto guardando per esempio Il Grande Fratello, lo prendo come riferimento. Tu ancora hai una delle prime edizioni, ancora c'era un senso, diciamo, di innocenza nel concorrente Il Grande Fratello, non si notava questa professionalità così spiccata come c'è oggi. Sì, ma forse probabilmente perché ci sono alcuni concorrenti oggi, tra virgolette, che vogliono anche un po' imitare alcuni concorrenti del passato, delle vecchie edizioni, che hanno poi riscontrato effettivamente successo. Beh, sono creati i modelli, le categorie. Sono creati assolutamente dei modelli. Però è vero che noi non abbiamo un copione, sarebbe veramente molto difficile. Sicuramente però all'interno del confessionale gli autori, che poi è quella fatica, insomma, voce del Grande Fratello, prendono spunto dalle situazioni che si creano all'interno della casa. Ma durante la giornata e la notte avevate dei contatti con gli autori? Assolutamente no, non avevamo dei contatti se non per avvisi, se non per avvisi, perché si poteva scaricare la batteria. Ma sai cosa pensi? Che oggi non si ha più bisogno di un controllo così stretto, perché il concorrente è già un professionista, già arriva come se avesse fatto l'università del Grande Fratello, è laureato in Grande Fratello, sa esattamente tutti i meccanismi per emergere o per entrare in quel suo ruolo. Ma tu cosa avevi fatto? Qual è qualcosa di memorabile del tuo passaggio a Grande Fratello? Allora, io mi ricordo semplicemente... Fidanzati, amori, cosa ti attribuirono? Allora, io avevo questa forte amicizia con Patrick, che ve lo ricorderete tutti quanti. Ma è orribile, sì, è vero, certo. Sì. Che fine ha fatto? È ancora vivo Patrick? Patrick, non lo so, penso di sì, l'ho visto per un po' come inviato presso una trasmissione. Ah sì, è uno di quelli che un pochino ce l'ha fatta, sì, è riuscito. Adesso, poi dobbiamo capire che cosa significa ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta. Vabbè, comunque, lavoricchia ancora ogni tanto. Lavoricchia sicuramente. Tu invece niente? No, anzi, io ho fatto il processo al contrario. Io quando ho concluso l'esperienza del Grande Fratello sono ritornata all'ovile, diciamo così, a Taranto, ho ripreso i miei studi universitari, sono 8 anni che lavoro in TV, però sto facendo la gavetta. Lavoro in è la prima televisione territoriale in Italia più ascoltata, però ho imparato dal basso. Sì, ma non come una residuata al Grande Fratello. Se uno va adesso oggi in una festa di paese sotto Ferragosto, ma nel più nascosto e recondito paesino di qualsiasi regione d'Italia, vede ma festa lavorare. No, ti spiego, festa paesana, interviene Pinco Pallino, ex concorrente del Grande Fratello numero 25. Io non 25. Vengo presentata così. No, te lo sono dimenticati, certo. No, ma poi non vengo presentata così. Io ho in mano diverse conduzioni di alcuni programmi anche in diretta, ma sono Ilaria Turi, non sono Ilaria Turi. Si sono dimenticati questa cosa qua. Però mi piace anche essere Ilaria Turi del Grande Fratello, se è rapportato per esempio in un format radiofonico come questo, vengo ricordata assolutamente. Sì, così. No, perché sei una testimone ancora, cioè non corrotta dall'abuso. Parlo con te perché gli altri ormai... Ma io me ne sono scappata, io me ne sono scappata post Grande Fratello, perché non mi piacevano una serie di situazioni, una serie di dinamiche, l'ho anche scritto comunque... E quali erano le dinamiche? Ma le dinamiche sicuramente, perché è un mondo dove devi avere comunque delle forti conoscenze, o comunque ti devi, tra virgolette, saper vendere bene. Vendere in senso di intima d'azione o vendere in che senso? Tutte e due. Tutte e due. Sì, assolutamente, tutte e due, sia da una parte che dall'altra. Devi essere... Sì, quello... Questa è la vita. Questo lo sappiamo, ormai non sono, diciamo, argomenti freschi, sappiamo che nel mondo, insomma, della televisione siamo arrivati alla sigla, se no ci seguono fra 2 secondi. Grazie e ti auguro in bocca al lupo e ci sentiamo domani.